Allora, sono le 17:31 di mercoledì 1 novembre 2023 e sembra un caso, ma quasi tutte le volte che prendo il microfono e registro qualche mia impressione sto uscendo dal Pala Expo di Roma. E il fatto è che in questo periodo, per varie ragioni, andare alle mostre in perfetta solitudine è quasi l'unica cosa che riesco a fare lontano da casa. In realtà ero andato a vedere la mostra di Calvino alle Scuderie del Quirinale, ma poi uscendo ho fatto un salto alla libreria del Pala Expo, dove mi sono imbattuto in un volume di Giorgio De Finis che ancora non avevo intercettato e che si intitola Museo, teorie pratiche politiche. In realtà è un volume curato da De Finis con contributi di tantissime persone, edito da Bordeaux, è uscito credo nel 2020 e che insomma non me ne ero neanche accorto, ma contiene anche un mio contributo. E questo perché di che cosa parla il libro? Il libro parla fondamentalmente di tutte le discussioni che sono nate dopo il progetto Macro Asilo, grande progetto di cui lo stesso De Finis era stato direttore artistico e che aveva riguardato il macro di Via Nizza tra l'ottobre del 2018 e la fine del 2019. Un progetto rivoluzionario, perché per la prima volta portava in uno spazio istituzionale un'offerta completamente aperta sia alla cittadinanza sia agli artisti che intendessero contribuire, trasformando questo spazio, lo spazio voluto da Odile Deck, anzi scusate, voluto ai tempi da una certa amministrazione della città, che chiamò questo istrionico architetta francese per trasformare gli spazi dell'ex stabilimento Peroni, ampliarli e trasformarli in una sorta di ponte tra due strade della città, e quasi tutte le, diciamo così, direzioni artistiche che avevano preceduto il progetto erano molto molto tradizionali. Quasi sempre si trattava fondamentalmente di fare di questo spazio qualcosa che fosse a disposizione del sistema dell'arte, del sistema soprattutto delle grandi mostre, quelle grandi mostre che circolano in giro per esempio per l'Europa come se fossero concerti e facevano tappa, per dire, alla Triennale di Milano e poi arrivavano magari anche al Macro di Roma. Ecco, praticamente una gestione immobiliare più che curatoriale, che si interrompe bruscamente, va in crisi, anche perché il Macro non può competere in quel genere di sport con altre strutture più grandi e importanti della città, come le Scuderie del Quirinale, lo stesso Pala Expo, naturalmente il Maxi, e è sempre stato un po' alla ricerca di una sua identità il Macro. E De Finis, con un budget davvero ridicolo, perché aveva circa 400.000 euro l'anno, decide fondamentalmente di fare una piattaforma aperta sia al pubblico sia agli artisti, dove il contributo, diciamo, dei creativi, artisti, intellettuali, eccetera, performer, era un dono. Naturalmente era un dono anche la partecipazione del pubblico, ed era un dono lo spazio sia per il pubblico sia per i creativi. E questo risicato budget serviva fondamentalmente solo a garantire la manutenzione dello spazio. È qualcosa di davvero rivoluzionario, specialmente se lo consideriamo come un passo istituzionale, in un luogo istituzionale, che afferma l'estraneità, la volontà di, diciamo così, estraniare la città rispetto a un sistema dell'arte molto chiuso e unicamente avvitato sul criterio della sostenibilità economica, non dell'arte in quanto tale, ma di quella piccola parte che qualcuno decide essere arte. Ecco, questa questione, ciò che è arte, ciò che non è, viene completamente superata dal Macro Asilo, perché non esiste una vera scelta curatoriale. Il museo è ospitale, nel senso che ospita tutti, e poi sta al pubblico stabilire che cosa c'è d'artistico e che cosa no. E il libro che ho menzionato, come dicevo, ospita anche un mio contributo, e cioè un post che avevo scritto dopo circa 3 mesi dall'apertura del macro e che provava a tracciare un primo bilancio dell'inizio del progetto. È ancora, diciamo così, un commento interlocutorio il mio, non è un giudizio né integralmente positivo né negativo. Avrei dovuto aspettare, diciamo, partecipare a tutte o quasi le iniziative, perché era anche molto vicino al mio ufficio, per rendermi conto in realtà che si trattava di un'operazione straordinariamente preziosa, soprattutto come motore per la creazione e la circolazione di idee in qualsiasi forma, lo scambio di idee, l'apertura di questa vera e propria frattura nel sistema dell'arte romano e, mi verrebbe da dire, anche italiano. E terminata questa operazione si aprono tantissimi fronti, e soprattutto è un precedente con il quale bisogna fare i conti, anche quando poi Luca Lopinto prende in mano il macro con il suo peraltro pregevolissimo progetto del Museo dell'Immaginazione Preventiva, deve per forza mantenere l'ingresso gratuito, perché non è più possibile immaginare di pagare per andare a vedere qualcosa al macro dopo quello che è successo nella gestione macro Zero, nella gestione del museo ospitale. E quindi un po' il tema su cui ho cercato di interrogarmi anche nei miei ultimi libri, sia in Unframing sia in Stiamo Sprecando Internet, è davvero che cosa, che ruolo possa avere oggi l'arte, in particolare l'arte contemporanea, soprattutto nella capacità di supplire alle lacune del sistema dei media, che non è più un sistema in grado di informarci né di farci aprire gli occhi sulla realtà, perché obbedisce a regole diverse. Ecco, se tu liberi anche l'arte dal vincolo del sistema finanziario, succede che vai in un luogo dove qualcuno è libero di farti vedere che cosa è rilevante secondo lui, e poi sta a te, al tuo spirito critico, capire se questo criterio di rilevanza funziona per la tua comprensione del mondo. E purtroppo, come sapete, l'operazione De Finis è stata chiusa abbastanza bruscamente alla fine del 2019, e non per via della pandemia, che ha chiuso contemporaneamente anche proprio tanti musei, ma proprio perché quell'operazione a un certo punto era diventata politicamente indigesta. Questa è la chiave di lettura mia, non so se siete d'accordo, ma e da allora, diciamo che tutto questo pentolone al quale era stato tolto il coperchio e che era stato ospitato in questo luogo dove aveva avuto finalmente ascolto, visibilità, interazione con la città, il pentolone si è richiuso e si è riorganizzato in modo abbastanza disorganico, ma comunque spesso intelligente, no? La pandemia, per esempio, è stato un momento in cui i musei sono stati chiusi, ma tantissimi studi d'arte sono diventati open studio e in qualche modo sono diventati visitabili anche durante la pandemia. Questo ha aperto l'opportunità, no, di creare anche delle reti di spazi gestiti dagli stessi artisti, al di fuori da qualsiasi logica strettamente commerciale. E si moltiplicano non solo le aperture a Roma di spazi di questo tipo, ma anche gli studi, no? C'è un bellissimo libro che si chiama Vera, uscito 2 anni fa, che comincia a raccontare l'esplosione degli spazi, i cosiddetti artist run spaces, che naturalmente non sono nulla di nuovo, anzi affondano radici molto solide, per esempio negli anni 80, no? Penso per esempio a Spazio Zero a Firenze o alla cooperativa L'Alzaia, mi viene in mente Studioli a Tor di Quinto, cioè ci sono tantissime storie simili, andando a pescare in qualsiasi decennio, ci sono tantissimi riferimenti, pensiamo ai Temporary Autonomous Zone di Akin Bey. C'è proprio tutta una visione del ruolo dell'arte, della performatività, della creatività, nella capacità di darci strumenti per interpretare il mondo, strumenti liberi dal condizionamento di un criterio finanziario.